fosse questa. In quale lingua penso? Non si pensa a nessuna lingua. La lingua entra nel pensiero come una zeppa tra le ruote a razzi, frantumo, intoppo, spezzature. Questo è il pensiero. Parlo la lingua del nemico come un tipo calmo. A volte cerco le parole, non per delicatezza, ma perché non le trovo subito. Parlo con la sincerità di chi non parla la sua lingua, quasi non posso mentire perché mi manca la conoscenza profonda della lingua del nemico. Conosco poco la storia delle arti. In questa lingua ci si chiede spesso se l'altro abbia capito, non quello che si è detto a parole, ma quello che è successo tra chi parla. Succede sempre molto. Ma sembra che non sia successo nulla. Amiamo più l'addio che l'incontrarsi, anche perché l'addio contiene l'incontrarsi, mentre l'incontrarsi potrebbe per tante coincidenze non avvenire mai. E ciò che resta, oltre ciò che non è stato, quel che resta è la vita. Giovanna d'Arco, visione di sé. Quello che credono sia la poesia. Per esempio, avere rapporti col fuoco, sessuali, sentimentali. Che cosa devo dire? Che nel buio della storia, nel buio periferico della storia, nei margini scolastici di un libro di storia, in quei vicoli laterali, qualcuno mi segue. Per chi è morto, l'avvenire è una beffa, sia come eventi che come vite altrui. Tra me e il fuoco non c'è mai stato nulla. È una fissazione dell'uomo! Il rogo! Il fuoco è dell'uomo e l'uomo continua col fuoco. Ogni uomo una chiesa, se non sarà ancora capito, dopo secoli cosa riaccende quest'uomo? Il fuoco. Il fuoco riaccende lui e lui riaccende il fuoco. Questa storia di me e del fuoco mi chiarisce qualcosa sulla poesia, su cosa sia per inversi. Il proprio comodo, dal momento che il fatto è accaduto, e far inversi me, in frasi, in pezzi. Nei vicoli, ai margini della storia e della sua notte, sento i passi degli infatuati che mi seguono. Infatuati di me? No, di sé. Agisca su di me come una purificazione, come godimento. Questi uomini, il cui desiderio scende a patti con la fantasia su di me. Ah! A proposito di lirismo, mi vengono in mente tutte le puttanate sull'estasi delle statue. Ecco, io dico, non c'è sesso nell'estasi, anzi, è esattamente il contrario. È il sesso che ambisce a sollevarsi dal corpo, a distaccarsene prima che avvenga la morte, ovvero a provare piacere per sempre. O no, basta dirlo. E chiunque sa di saperlo. Sappiamo il godimento come avviene quando ogni corpo è assurdo e non più vero, e più l'abbraccio più sfugge alla tua comprensione. Chiesa, si sa, è una questione di uomini. Sento ancora voci, le voci su di me, e questo mi dispiace. Conosco il desiderio del silenzio, come chi è massaggiato e in abbandono sa bene che fatica sia parlare. Quindi non posso a questo punto chiedere altro che massaggi, massaggi, massaggi sul mio corpo. Ottima letteratura, nella quale è contenuto tutto esattamente tutto di un uomo. Thank you. mano di notte e di giorno. Passerete dita sui bordi, darete occhiate per dritto e per traverso, coglierete gelosie, desideri, spingerete un loro sportello con l'anca o con la coscia, premerete il culo o il ventre contro le loro sporgenze. Avrete contatti, c'è chi fa il freddo, chi fa il caldo, chi fa l'acqua. Vi riscalderanno, vi rinfrescheranno, respirano, hanno le loro ventole, i loro brividi, i loro rumori, le loro eccitanti centrifughe. Dando un'occhiata ai fogli illustrativi e ai manuali d'uso, conoscerete attitudini, versatilità, disadattamenti. Risalirete all'origine di ogni spasimo, ogni pulsazione, ogni battito. Individuerete alloggiamenti e ubicazioni di marchingegni o gelli, leggendo le istruzioni e le avvertenze. Questa ottima letteratura, nella quale è contenuto tutto, veramente tutto, di un uomo. Buonasera a tutti, grazie di esistere a tutti voi. Cinzia Villari. Pino Zazzonico, l'uomo che non vedo mai. Le percussioni, Massimo Rosari. Detto cingalese, Claudio Bevilacqua. E a me mi conoscete, non mi presento. Però saluto mio cognato qui in seconda fila, grazie. Michele Villare al sax, al contralto e al soprano. Un grosso applauso per Michele, un po' più forte. mezza. Quella fragilità della figura, quei fili di donna, di uomo, cos'erano? Fili di vita? Ultimi fili di vita? Forse l'ultimo segno che dopo il tempo, l'esistenza, la morte, l'intelligenza, l'ottusità, li avevano corrosi, se l'erano mangiati, li avevano rovinati. Un ultimo segno dopo il quale non c'è nulla, significando anche, forse, non lo so, che io non ne potevo fare a meno. Qualcosa, una cosa sottile, almeno quella doveva restare. Ma non una sottigliezza. Fatemi il favore, non una sottigliezza. Lasciare e togliere. Togliere e lasciare. Ma perché? Si può dire tutto. Togliere come lasciare, concretamente, con le dita, non con la testa. Con la testa. Si può dire tutto. Io con le dita sottilizzavo, sottilizzavo con le dita. Quello che toglievo mi rimaneva tra le dita quando era ancora tanto. Poi sui polpastrelli quando era ancora poco, un velo. Toglievo i veli. Mi rimaneva sulle dita il superfluo della figura. Restava quel filo di scultura sulla quale tempo, intelligenza, ottusità, non avrebbero potuto nulla. Si può dire tutto per non poter fare più quasi niente. Thank you. di salvarsi la vita. Prima dell'uomo sapiente, fu l'uomo spettacolare, il padrone del mondo. E ognuno si sedeva come un re davanti alla manifestazione della vita messa alla prova sulla scena. Ognuno si disponeva come un dio alla visione indulgente delle peripezie dell'uomo su questa terra lontana. Il pubblico assiste allo scorrere della vita, vita di sofferenze, di piaceri, di crolli, di trionfi, di soddisfazioni d'amore, di vendetta, di fortuna, sfortuna, ricchezza, povertà. Il pubblico vede tutto questo e, come secchi legati a una corda, lancia i suoi sentimenti in pozzi che sprofondano non solo in basso, ma anche in alto, in tutte le direzioni, radenti, oblique. E poi lascia che quei secchi e il loro contenuto si sciolgano nel liquido, nel solido, nell'etereo. È uguale. Quello che recuperano è la corda, quella sì. Lo spettatore si salva dalle aggressioni del tragico, del comico, dalle consumazioni del dramma, dalle visioni della farsa, dal ridicolo, dalla commedia, ma si salva anche dallo sforzo del canto, dall'esercizio, dalla disciplina, dall'applicazione, dalla volubilità dell'applauso.